Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, benvenuti a Salva Danaio. Due giorni fa a Roma è stata presentata la relazione annuale del presidente della Covip, che è l'organismo che vigila sui nostri fondi pensione, la commissione di vigilanza sui fondi pensioni italiani, sui nostri fondi pensione. Dicevo, naturalmente parlo di coloro che ce l'hanno, perché non tutti i lavoratori hanno avuto negli ultimi anni l'opportunità di aderire ad uno strumento di previdenza complementare. Il presidente è Antonio Finocchiario e ha raccontato appunto proprio due giorni fa qual è lo stato di salute della previdenza integrativa nel nostro paese, settore che la crisi economica non ha mancato di colpire. Era inevitabile, il primo effetto visibile è stato lo scorso anno, che i rendimenti dei fondi pensione integrativi sono stati inferiori a quello al rendimento appunto che invece riesce a garantire il TFR, il trattamento di fine rapporto mantenuto in azienda. Ma ancora peggio, quello che è successo nell'anno è che circa il 20% degli iscritti hanno sospeso i versamenti a causa delle difficoltà economiche attraversate dal mondo del lavoro. Tutto questo oggi noi lo commenteremo proprio con il presidente Finocchiario, che è nei nostri studi di Roma e che saluto immediatamente. Presidente, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Presidente, oggi ha accettato molto volentieri di confrontarsi anche con i nostri ascoltatori, che come sempre possono chiamarci all'800 24 00 24, oppure scriveteci al 349 238 6666. È l'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure potete andare anche ad esprimere la vostra opinione su Facebook, e siamo all'indirizzo, al profilo salvadanaio-radio24. So che è un tema al quale tenete molto, anche molti giovani, nonostante non riescono ad entrare con facilità in questo momento nel mondo del lavoro. Sapete bene a quale percentuale ammonti in Italia il tasso di disoccupazione della popolazione giovanile, guardano però con grande sensibilità questo argomento, e a conferma di questo poco fa ho avuto proprio una chiacchierata con Roberto Scaltriti, che oggi mi assiste in regia e che mi raccontava che tipo di scelta previdenziale ha fatto, i motivi per i quali ne è completamente insoddisfatto, e mi stava chiedendo che cosa posso fare, devo cambiare attore, devo cambiare interlocutore. Poi le spiegherò, presidente Finocchiaro, perché Roberto non è contento, perché ha scoperto, anzi glielo spiego subito così poi lei magari si fa un'idea e commenteremo insieme le sue considerazioni, perché ha scoperto che è un prodotto carissimo, che la società che glielo ha venduto lo ha gravato di caricamenti all'inizio, per cui lui dice: ma insomma, io non ho a questo punto nessuna certezza che al termine del mio piano di versamento io avrò almeno quello che ho versato, quindi figuriamoci se ho la possibilità di sperare in una remunerazione aggiuntiva, che è quella che mi può garantire un'integrazione adeguata alla pensione. Stiamo parlando di un ragazzo, Roberto, tu non hai neanche 30 anni, vero? Ne ha 28, per cui questa è la sensibilità dei giovani a questo argomento, e questa qualche volta invece la mancata trasparenza e serietà delle società che operano in questo settore. Primo punto, quindi presidente, partiremo da questo, poi oltre che dei dati che ha raccontato due giorni fa. Prima di questo però volevo presentarvi un altro ospite che sarà con noi solamente per pochissimi minuti, ma è un tema molto importante quello di cui si discute in questi giorni a Milano, perché c'è un evento, una fiera che si chiama Reatech ed è sostanzialmente la fiera evento del mondo della disabilità, e anche in questo contesto si parla di finanza, perché voi pensate a quale grado di preoccupazione hanno quelle famiglie che magari vivono una condizione difficile come questa, hanno una persona disabile in casa e naturalmente pensano necessariamente al futuro di questa persona. Ma qualche volta è molto difficile anche guardare in prospettiva la gestione finanziaria di queste persone. Se i genitori verranno a mancare, cosa succederà a mio figlio che vive questa condizione? Quindi di questi temi si sta parlando anche in questi giorni, e una società che si occupa di assicurazioni e previdenza, io la cito, però voglio subito precisare che quanto questa società ha organizzato in questa fiera non ha alcun intento commerciale, ma ce lo facciamo spiegare direttamente da loro. Giuseppe Apicella Guerra, sales manager di Pramerica Life, buongiorno. Mi sente? Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Allora, volevo che ci raccontasse che cosa avete organizzato in fiera, proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'educazione finanziaria, in qualche modo, di quelle famiglie che vivono una situazione di disabilità all'interno del nucleo familiare. Buongiorno a tutti, sì, ha ragione, ha tratteggiato correttamente gli argomenti che stiamo cercando di approfondire, di trattare con l'ausilio di tutta una serie di amici e colleghi. Il dopo di me è un tema che affligge gran parte delle persone che vivono direttamente la responsabilità di persone affette da disabilità nelle sue varie forme e livelli di gravità. Affrontiamo questo tema da tre aspetti, uno organizzativo, uno giuslavoristico, se vogliamo, ed uno finanziario e assicurativo, con l'obiettivo di fornire delle indicazioni, laddove è possibile di dare addirittura delle forme tecniche che consentono alla persona di acquisire delle certezze in un mondo dove l'indeterminatezza delle cose è un fattore di grande preoccupazione. Lo facciamo con delle persone che vivono tutti i giorni questa realtà e con dei professionisti che le affrontano nella loro veste più professionale. Gli incontri sono aperti, dottora Picella Guerra, quindi siccome ce n'è uno domani pomeriggio alle 17.30 e uno domenica nel primo pomeriggio alle 14, tutte le persone che sono interessate a questo tema possono venire in fiera a Milano. Mi rendo conto che comunichiamo questa cosa solo ai milanesi all'Interland, però è già qualcosa. Sono aperti gli incontri, giusto? Sì, liberi. Sì, gli incontri sono aperti a tutti. L'incontro di domani sarà centrato su le opportunità del mondo del lavoro per le persone affette da disabilità. Saranno presentate da Francesco Rotondi, un avvocato di grido del mondo giuslavoristico milanese, ma che si presenta con una veste particolare. Si presenta come presidente di un'associazione sportiva, l'associazione sportiva Barona, che ha un motto molto simpatico, perché tutti con la stessa maglia. È un'associazione sportiva che affronta il mondo della disabilità evitando di ghettizzare, mi passi il termine, il disabile come qualche cosa da curare in una maniera a parte, ma è una gestione integrata di persone affette da disabilità o meno che abbiano in comune soltanto una passione sportiva. Rapidamente, l'incontro di domenica, quali certezze economiche lascerò? Esatto, qui interverrà Bernardino Casadei, il segretario generale di Assifer, e Alessandro Liga, sono un senior life planner di Premedica, dove andremo a indicare delle modalità anche tecniche con cui andare a garantire certezze. È una caratteristica di una compagnia americana, quello, perché nasce in un mondo particolare, ma l'obiettivo è anche ancora una volta laico, di fornire delle indicazioni a prescindere da quello che può essere la compagnia di riferimento per andare a realizzare delle soluzioni. Benissimo, complimenti per questa iniziativa. Per tutti gli interessati potete andare a controllare il programma dei lavori sul sito www.reatech.italia.it, tutto attaccato. Se non avete capito, scriveteci che noi vi diamo l'indicazione precisa. Giuseppe Apicella Guerra, grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie a lei, dottoressa. Buon lavoro. Presidente Finocchiaro, come vede, insomma, lo sguardo al futuro è assolutamente importante da moltissimi punti di vista. Noi oggi ci soffermiamo sulle persone che lavorano, su quelle che hanno perso il lavoro quest'anno, su quelle soprattutto che non sono in grado di garantire adesso un versamento regolare, un'alimentazione regolare del prodotto di previdenza complementare che hanno scelto. Effettivamente è stato molto enfatizzato successivamente alla presentazione della sua relazione annuale questo aspetto. Quanti lavoratori hanno dovuto sospendere il piano di versamento e il piano di alimentazione del proprio strumento di previdenza integrativa? Presidente, che cosa ci suggerisce questa fotografia? Nel nostro paese la previdenza complementare, le adesioni alla previdenza complementare sono effettuate dal 24% dei lavoratori e quindi ammontano in valore assoluto a 5.600.000 adesioni. E di questi 5.600.000, quasi un milione, forse anche qualcosa in più, nel 2011 non ha registrato versamenti sul proprio conto. È un dato un po' grezzo, per la verità, perché noi tenteremo di disaggregarlo nei prossimi mesi, perché ci sono varie causali. Ci può essere la sospensione da parte dei versamenti del datore di lavoro perché magari ha chiuso, perché è in una situazione di difficoltà, oppure scelte del lavoratore che a un certo punto ha dovuto preferire o è stato obbligato a preferire i consumi più immediati e quindi ha rinunciato a versare sul proprio conto qualcosa per il futuro. O anche scelte di insoddisfazione come quella che raccontavo poco fa, Presidente, forse anche una piccola percentuale di questi casi emergerà. È probabile, però per dare un giudizio bisogna capire che tipo di forma pensionistica il radioascoltatore ha scelto, perché esistono tre forme pensionistiche: sono i fondi cosiddetti negoziali, cioè i fondi creati da un accordo fra organizzazioni sindacali e datori di lavoro. Ci sono il Cometa per i metalmeccanici, il Fonfim per i chimici, per dare i classici esempi. Perfetto. Poi ci sono i cosiddetti aperti, i fondi aperti gestiti da società finanziarie in genere, dove si può aderire anche a titolo individuale oppure in maniera collettiva con accordi specifici. E poi ci sono i piani individuali pensionistici gestiti da assicurazioni, che dove si aderisce, è una forma di assicurazione, insomma, si aderisce a titolo individuale. Tenga presente un particolare, che naturalmente nelle tre forme i costi sono crescenti, ma poi bisognerebbe valutare una serie di parametri, cioè questo radioascoltatore ha scelto una forma di investimento garantito o non garantito? Sì, Roberto, il mio assistente tecnico. Ha scelto di avere la reversibilità o meno, insomma ci sono vari parametri. Nella relazione della Covip c'è una tabella che indica, si chiama indicatore sintetico dei costi, è una tavola 16, se poi avrà l'occasione di vedere, che indica il costo delle tre forme pensionistiche a 2 anni dall'adesione, a 5 anni, a 10 anni, a 35 anni. Roberto mi ha detto che ha già fatto questo controllo. Che cosa hai trovato, Roberto? Il tuo costo in linea è carissima e ha sottoscritto un prodotto tra i più cari, per cui non in linea evidentemente con le sue aspettative. No, quindi tanto per dire, insomma, che non è che state lì, presidente, ad occupare una poltrona, fate anche un lavoro molto concreto. Guardi, lei troverà nella relazione di un giorno fa proprio un invito. Io ho scritto più o meno queste parole: i fondi pensione hanno costi nettamente inferiori a quelli di altre tipologie di investimento, però c'è spazio per una diminuzione ulteriore. Infatti. E lo trova scritto lì. E noi opereremo in questa direzione. Naturalmente c'è un altro fenomeno che lei ha sottolineato: la numerosità dei fondi. E nella relazione io ho dato alcune cifre. Ci sono in Italia 554 fondi pensione nelle tre forme di cui ho parlato prima. Sono tantissime e soprattutto ci sono 400 fondi che hanno meno di 5.000 iscritti, credo 1.000 che ne hanno meno di, cioè, e 180 fondi che hanno meno di 100 iscritti. Ora lei si rende conto che con 100 iscritti non si fa una forma pensione, si moltiplicano i costi, insomma è un mondo che andrebbe razionalizzato. Bisognerebbe capire però come fare. Presidente, la devo fermare perché devo già fare la prima pausa, però le volevo sottoporre una questione, perché lei ci diceva prima tutti coloro che hanno sospeso il piano di versamento, noi abbiamo adesso necessità di andarli, non dico ad individuare uno ad uno, ma a cercare di capire in quali comparti prevalentemente questo distacco si è verificato. Un piccolo monitoraggio lo ha fatto, e lo salutiamo, il nostro Marco Lo Conte, che lei conosce molto bene, perché sul suo blog scrive che si tratta nella stragrande maggioranza di lavoratori autonomi iscritti a fondi aperti che non usufruiscono dei versamenti ricorrenti da un datore di lavoro. Solo il 15% circa ha riguardato lavoratori dipendenti, un fenomeno che ha riguardato la metà dei fondi pensione aperti e il 35% delle polizze previdenziali. Per cui magari, se vorrà, commenteremo questi dati. Non abbiamo Marco, non sappiamo come abbia avuto modo di fare questa prima depurazione, questa prima selezione, però è abbastanza probabile pensare che soprattutto i lavoratori autonomi abbiano deciso di interrompere il piano di versamento, visto che lo stipendio se lo costruiscono in casa, con i cali, l'eliminazione, le cancellazioni delle tante partite IVA che abbiamo registrato anche nel nostro paese, è anche abbastanza ragionevole pensare che da questo mondo sia venuta la maggiore difficoltà. Questa mattina a Salva Danaio abbiamo ospite Antonio Finocchiaro, che è il presidente della COVI per la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. È stata presentata 2 giorni fa la relazione annuale dell'organismo di vigilanza appunto sui fondi pensione. Sono emersi dei dati che per la verità stupiscono non più di tanto: molte famiglie, molti lavoratori hanno interrotto il piano di alimentazione e versamenti di questi strumenti di previdenza complementare, e poi appunto i tassi di adesione continuano ad essere abbastanza insoddisfacenti, ma d'altronde, alla luce anche delle difficoltà del mercato, dei mercati internazionali, del mercato del lavoro, è effettivamente, oggettivamente molto difficile prendere una decisione di questo tipo, cioè individuare il piano, lo strumento pensionistico che appoggerà l'assegno pubblico fra qualche anno, che integrerà l'assegno pubblico tra qualche anno. qualche anno, e poi se non si ha il lavoro, ma dai, non si ha neanche emotivamente appunto la testa per poter così studiare prospetti informativi e individuare uno strumento di previdenza complementare, non si hanno proprio le risorse, per cui le difficoltà sono tante, le stiamo commentando con il presidente Finocchiaro. Presidente, tra l'altro quella di 2 giorni fa è stata la sua ultima relazione, perché lei a gennaio completerà il suo mandato. Che esperienza è stata per lei questa della guida della COVIP? Ma guardi, è stata un'esperienza estremamente interessante che ha integrato la mia precedente esperienza. Io sono stato nella Banca Centrale, in Banca d'Italia, per 47 anni. E naturalmente ho notato delle differenze soprattutto in termini di principi a cui la Banca Centrale ispira la propria azione. La COVIP risente in parte di una caratteristica, per semplificare direi privatistica, ma in parte anche di una caratteristica direi pubblica del lavoro pubblico. Quindi è stato estremamente interessante, mi sono occupato di problemi, precedentemente avevo fatto trattative sindacali per conto dell'istituto, ma qui mi sono trovato con il problema pensionistico da affrontare, e per giunta in un momento difficile. Quello che lei aveva sottolineato prima, ha parlato di Marco Loconte è un attento osservatore dei problemi delle pensioni complementari, e i dati che ha fornito li ha ritrovati nella relazione, nella grossa relazione, perché sì, purtroppo le considerazioni dei presidenti sono una estrema sintesi di tutto quello che noi abbiamo fatto, di come si sono comportati i fondi. Altro problema, il lavoratore che vuole così scegliere un fondo pensione, ammesso che naturalmente non lavori in un'azienda che ha già sottoscritto un fondo negoziale, trova sul sito della COVIP tutta una serie di indicazioni anche in temi di costi, in temi di rendimento, in temi di linea di investimento che potrebbero aiutarlo nella sua scelta. Certo, in questo paese, nel nostro paese, non è che ci sia una cultura previdenziale molto molto diffusa, che potrebbe naturalmente aiutare i lavoratori nelle proprie scelte. Però questa è la situazione, e con questa situazione dobbiamo le cose stanno cambiando in tempi anche molto rapidi, ma d'altronde non abbiamo più un sistema di welfare che ci garantirà quanto già garantito fino a poco fa, tutto quello che ha garantito alle nostre famiglie in passato. Adesso stiamo veramente registrando una rivoluzione alla quale dovremo abituarci. Il sistema privatistico farà la parte da leone nei prossimi anni a questo confronto. Con il sistema privatistico dobbiamo abituarci ed essere molto preparati naturalmente ad individuare sul mercato le migliori condizioni per noi, ma non è facile naturalmente, per questo qualche volta si fanno anche degli errori e si scoprono delle sorprese come quelle che sono capitate agli ascoltatori che adesso sentiremo, ad esempio Giulio da Ascoli Piceno. Buongiorno. Buongiorno, senta, io chiamavo perché ho aderito al fondo pensione ben prima dell'obbligatorietà della legge. Sì, diciamo che non era un'obbligatorietà. Nel 2007 c'è stata la riforma del TFR che ha dato la facoltà ai lavoratori di dirottare il TFR su un fondo pensionistico. Ho seguito tutte le vostre trasmissioni, quindi diciamo che non ero uno disinformato. E mi era sembrato che questi fondi pensioni dessero, come lei stava dicendo precedentemente, una certa garanzia su quello che, sulla riforma, sul fatto di saturare quello che l'INPS non ci avrebbe più dato. Circa 3 settimane fa è arrivato il prospetto della mia struttura di fondo pensione. Che ma lei ha un fondo pensione negoziale? Cioè che quello chiuso, quello confederale. In che settore lavora Giulio? Autoferro Tranviere. Sì. E mi hanno fatto un calcolo approssimativo che io tra 10 anni avrò versato circa 60.000 euro e l'arrendimento annuale di questa pensione è di 1.200 euro l'anno. E questo è un calcolo che è stato fatto a seconda delle aspettative di vita che la sua persona ha, Giulio, forse penso, è stato sì, certo, però ovvio. 60.000 euro versati con 1.200 euro l'anno, cioè permette che è stata una delusione a dir poco notevole. Ammettendo che lei, Giulio, andrà in pensione a quanti anni? Perché tra adesso io non anni, so, tra 10 anni. Quindi ne avrà, le posso chiedere? 70, probabilmente. 60. Allora, presidente Finocchiaro, ci mancherebbe, come no? Dunque, allora, senta, io a Giulio direi una cosa. Innanzitutto, tenga presente che la valutazione di un fondo pensione non si fa anno per anno, si fa valutando nel medio e lungo periodo. primo. Secondo, i fondi pensione investono sul mercato e sui mercati e quindi sono soggetti anche alla volatilità dei mercati. Il problema è che bisogna vedere come andranno i mercati nel momento in cui lui deciderà di andare in pensione. Ma io gli vorrei dare anche un suggerimento. Se nel momento in cui lui, nel momento in cui andrà in pensione, i mercati sono in una situazione di difficoltà, se vuole, non è necessario che lui prenda immediatamente la rendita, cioè la pensione, insomma. Può anche aspettare, se naturalmente le sue condizioni economiche glielo consentono, per aspettare il momento in cui i mercati riprenderanno. Mm-mm. Quello che lui ha ricevuto è un indicatore molto interessante, perché se il sistema pensionistico obbligatorio, l'INPS, riuscirà a inviare, come è stato detto dal presidente dell'INPS, riuscirà a inviare nell'arco di qualche mese a tutti i lavoratori una previsione di quella che sarà la sua pensione, la pensione di ciascuno di essi, la cosiddetta busta arancione, busta presidente. Arancione, perfetto. Beh, allora sostanzialmente ciascun lavoratore potrà fare una valutazione attenta: rinunciare a un fondo pensione integrativo, partecipare a un fondo pensione integrativo. Cioè, il problema, qui io parlavo prima di previdenza complementare, lei ha definito perfettamente la situazione in cui oggi ci si ritrova. È chiaro, la crisi, è chiaro che la crisi nel nostro paese, come in tutti gli altri paesi avanzati, ha impattato non solo sui bilanci pubblici, ma ha impattato anche sui sistemi pensionistici. Quindi allora la questione di Giulio è, presidente, per tradurgliela in termini semplici, è che sulla base di quello che ha versato adesso e del montante che ha maturato fino a questo momento, questo montante fra 10 anni, il primo assegno che riceverà gli permetterà di ricevere 1200 euro l'anno. Fra 2 anni la proiezione potrebbe essere diversa? Diversa, è perfetto, potrebbe essere diversa, potrebbe essere maggiore, potrebbe essere anche minore, dipende dall'andamento dei mercati, però storicamente, questo è dimostrato, i fondi pensione hanno reso mediamente sempre più del trattamento di fine rapporto. E quindi questa è la scelta che un lavoratore deve. Il lavoratore non è obbligato ad aderire a un fondo pensione. Il fondo adesione è un fatto volontario. E può, se vuole, lasciare il trattamento di fine rapporto in azienda. Però attenzione, aderendo ad un fondo pensione normalmente si ha diritto non soltanto al trasferimento del trattamento di fine rapporto, ma anche ad una contribuzione da parte del datore di lavoro, oltre che a una propria contribuzione. Certo, allora, se non si aderisce si perde quella del datore di lavoro. Però insomma è anche abbastanza comprensibile la sorpresa che Giulio ha avuto, perché comunque quando uno fa un accantonamento, un lavoratore fa un accantonamento per la sua pensione, comunque immagina che tutto quello che accantona sia quantomeno garantito nel rendimento, poi magari non fa le dovute scelte, le scelte opportune sulla linea di investimento che il fondo pensione ha. Magari Giulio ne ha scelto uno un po' aggressivo che nell'ultimo periodo è risultato particolarmente penalizzato. Ma anche il tema, se avesse scelto il più cauto e il più prudente possibile, con quello che è successo sul mercato obbligazionario nell'ultimo anno, anche la performance di quella linea, presidente, bravissimo, ne avrebbe risentito. Peraltro, che cosa è successo sulle linee obbligazionarie alla luce dei movimenti dello spread nostro, ma anche quello di tutti gli altri paesi, soprattutto i periferici? Guardi, la riduzione dei rendimenti che si è avuta anche sui mercati obbligazionari è chiaro che ha inciso sulle future pensioni, però stiamo discutendo di come dire, guadagni o perdite che non si sono realizzati. Ecco perché dico la valutazione va fatta. Certo, chi ha investito in titoli azionari, con l'andamento dei mercati azionari che hanno subito fortissimi ribassi, in questo momento, dico in questo momento, chiaramente se dovesse andare in pensione oggi probabilmente registrerebbe una perdita. Ma se non si muove non bisogna spaventarsi, perché sono guadagni o perdite che non sono realizzati. Ecco perché bisogna aver fiducia nei fondi pensione e naturalmente bisogna aver fiducia in maniera ragionevole, in maniera razionale. Bisogna in un certo qual modo, e qua ritorniamo al discorso dell'educazione previdenziale, e bisogna valutare con attenzione le proprie scelte, le cifre che si vogliono investire e tutta una serie e poi di chiedere anche conto alla figura professionale che gestisce questo denaro per conto nostro, perché stiamo parlando di persone a cui è stato affidato il nostro futuro e la serenità della nostra vecchiaia. È talmente tranquillo Renzo da Lucca che sentite un po' che scelte che ha fatto. Renzo, buongiorno. Sì, buongiorno, infatti la vostra chiacchierata mi ha già a parte tranquillizzato e risposto, diciamo. Io premesso che ho 46 anni, e faccio l'asportatore dipendente in un'azienda di 30 dipendenti dove sono stato l'unico nel 2007 sotto i consigli delle vostre trasmissioni. Oh santo cielo, Renzo, che responsabilità che ci attribuisce, speriamo. Noi tra l'altro non davamo, no, io vorrei anche precisarlo perché ci ritorno spesso a quel periodo, poi Renzo la lascio concludere, perché veramente abbiamo fatto tante di quelle trasmissioni, ma la nostra volontà non era di dire fate per forza il fondo pensione, il nostro obiettivo era di dire in questo semestre si sta consumando una rivoluzione epocale nel nostro paese, c'è questa opportunità che dà una facoltà ai lavoratori, decidete come dirottare il vostro trattamento di fine rapporto con tutta naturalmente la libertà di scelta di mantenerlo anche in azienda. Questo era il nostro spirito, Renzo, e lei sulla base di quello che ascoltava all'epoca ha fatto la sua scelta, che è stata quale? La mia scelta è stata quella praticamente di aderire nel fondo pensione, da me scelto perché praticamente l'azienda, nel nostro settore non c'era un fondo pensione di categoria, a me è piaciuto uno delle generali dove tra l'altro mi trovo bene tuttora e sono andato su molto aggressivo, mancandomi quasi 20 anni andare in pensione. Sui consigli che sentivo dalle vostre trasmissioni meriterava un azionario puro, anche se c'era qualche piccola rimessa nei primi anni, poi successivamente se il mercato si assesta e va in miglioramento io beneficerò di tutta la progressione che ci sarà. Certo, ha accumulato più quote di questo fondo, Renzo sicuramente ha potuto sottoscrivere una consistente fetta di fondo. Allora Renzo, io la ringrazio per la sua testimonianza, devo andare in pausa a fare adesso anche suggerimenti, sentire suggerimenti per chi è in viaggio, però c'è anche da dire che effettivamente anche alla luce dell'ultima crisi dei mercati azionari, anche i più aggressivi, anche coloro che qualche anno fa sposavano la causa più aggressiva, hai un orizzonte temporale molto lungo davanti a te, vai subito con aggressività sul mercato. Qualcuno ha già cambiato idea, quindi anche qui ci sarebbe adesso da fare due considerazioni su questa scelta molto forte. Presidente Finocchiaro, detto che Renzo Da Lucca mi pare abbia fatto la sua scelta nella totale consapevolezza, ecco, lei oggi sposerebbe un'adesione così spinta come quella che ha fatto l'ascoltatore, dato quello che è successo dal 2007 ad oggi sui mercati azionari? Senta, il Renzo ha fatto una ottima scelta perché è giovane e quindi giustamente investe in una linea di investimento più rischiosa e che però in futuro può dargli una grossa soddisfazione. Nei fondi pensione esistono delle linee particolari che al limite partono con investimenti rischiosi e man mano che ci si avvicina all'età della pensione i capitali vengono gradualmente spostati su linee meno pericolose, obbligazionarie come. Quindi è una maniera per in un certo qual modo partire con un rischio alto e arrivare poi ad una linea di investimento abbastanza tranquilla, quella su titoli obbligazionari. E quindi il Renzo mi pare che abbia fatto una buona scelta. Sì, Presidente, andiamo invece all'aspetto dei costi che ci preme tanto. Allora, per chi sceglie un PIP, un piano individuale previdenziale, non sceglie il fondo pensione chiuso perché la sua categoria non lo contempla, va sullo strumento privato perché magari ha la consulenza di un promotore finanziario oppure di un'altra figura appunto di questo genere e perché gli viene proposto uno strumento a rendimento garantito, ma questi prodotti soprattutto nei primi anni di versamenti hanno dei caricamenti qualche volta assolutamente inaccettabili. Che cosa può fare la Covip per portare l'industria ad un ridimensionamento di questi oneri? Guardi, noi innanzitutto cerchiamo di fare una moral suasion, come si suol dire, cerchiamo di invitare i fondi a ridurre per quanto possibile i costi. Naturalmente è chiaro che i costi variano a seconda, come ho detto prima, se c'è o non c'è una garanzia di rendimento. E spesso nei PIP, perché questo è probabilmente quel nostro ascoltatore ha investito in un PIP, i PIP in buona parte sono si investono in linee garantite. Io ho sotto gli occhi qui quella tabella di cui parlavamo prima. In un investimento a 2 anni nei PIP si parte dallo 0,9% all'anno al 5,4% con una media di 3,6%, ma se dopo 35 anni però questo il costo medio scende a 1,5 punti con una forchetta che va da 0,7 a 2,5. Il problema vero è sempre il solito costo-rendimento del fondo. Il problema è anche un altro, che in genere all'inizio del piano di versamento questi aspetti non vengono ben comunicati anche ai sottoscrittori. Questo magari problema, se la commenta. Questo è un problema di trasparenza e la COIP sulla trasparenza è molto severa. E abbiamo detto in maniera estremamente esplicita che i promotori finanziari, il cui comportamento devo dire sta crescendo, perché le compagnie di assicurazione che gestiscono i PIP hanno capito che i piani pensionistici individuali sono, come dire, un ramo di attività abbastanza interessante per il futuro, e quindi fanno corsi di aggiornamento, corsi di formazione. Insomma, la previdenza complementare è giovane in Italia, non ha certamente, come dire, l'età degli olandesi, della previdenza olandese o di quella inglese e via dicendo. Quindi è un processo che gradualmente andrà migliorando. E quindi questo problema della trasparenza. Ecco, io quello che posso dire ai radioascoltatori è: quando qualcuno vi fa delle proposte, lasciamo stare i fondi negoziali naturalmente, lì sono le organizzazioni sindacali che trattano, è chiaro che i PIP hanno degli atteggiamenti piuttosto aggressivi alcune volte. Allora, in questi casi bisogna insistere perché si spieghi bene quali sono i pro, quali sono i contra, quali sono i perché? Perché poi si sottoscrivono anche dei moduli di adesione, e quei moduli vanno letti con attenzione. Perché vabbè, esatto, insomma, siccome le criticità noi puntualmente le tiriamo fuori dalla nostra trasmissione, voi le conoscete, sottoponetele al consulente che vi propone uno strumento di previdenza complementare, perfetto. Quindi insomma, soprattutto, ecco, focalizzate la vostra attenzione su quelle che possono essere poi potenzialmente le eventuali sorprese. Presidente, abbiamo tra l'altro l'ultima domanda, non riesco a fargliene altre purtroppo, però avevamo lasciato in sospeso la questione della necessità nel mondo dell'industria, almeno secondo quello che ravvisa lei, di razionalizzare i numerosi fondi che sono presenti sul mercato. Adesso, detto che Fonkim non si può sposare con Cometa, eccetera, quale tipo di razionalizzazione pensa? Chi può mettersi insieme a chi? Guardi, innanzitutto c'è una forte dispersione nei cosiddetti fondi preesistenti, la riforma del 93, quelli che in genere hanno anche una garanzia aziendale, in buona parte hanno una garanzia aziendale, lì c'è la maggiore dispersione. Però se vogliamo dare potere contrattuale domani alle organi di amministrazione dei fondi, sia nei confronti dei gestori di capitali, sia nei confronti di coloro, in genere assicurazioni, che erogano delle rendite, bisogna raggiungere una massa critica maggiore di quella media attuale. Cioè, non è possibile, un fondo con 1000 iscritti non riuscirà mai a ottenere rendimenti che può avere Cometa, che ha 450.000 iscritti, o Fonkim, che prende l'80% di tutte la base teorica. Quindi il problema è che in questo la COVID può soltanto dare suggerimenti, e cioè invitare, e ogni relazione della COVID ha di questi inviti. Il problema fondamentale è che ci vorrebbero degli incentivi o dei disincentivi. Di un'autorità di vigilanza è suggerire. Anche questo, certo, la strada l'ha aperta, Presidente. Noi intanto siamo arrivati all'appuntamento con le pillole curate invece con l'ente pubblico, in collaborazione con l'INPS, che ci aiutano a conoscere le novità e capire i meccanismi dell'ultima riforma delle pensioni, e oggi abbiamo scelto proprio questa. Come fa un lavoratore ad accertare che la sua situazione previdenziale sia in regola? Sentiamo. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con l'INPS. Il lavoratore o la lavoratrice che decide di andare in pensione, come può fare per verificare con certezza che la sua situazione previdenziale sia a posto? Il lavoratore o la lavoratrice può richiedere al proprio ente previdenziale l'estratto conto riepilogativo della propria posizione e verificare in questo modo che non ci siano vuoti contributivi o altri problemi. Per quanto riguarda l'INPS in particolare, è possibile chiedere l'estratto direttamente attraverso internet, collegandosi al sito dell'istituto ed entrando nella sezione servizi online per il cittadino. Grazie ad Antonio Finocchiaro, presidente della COVIP. Presidente, buon lavoro e a presto. Grazie a voi. Grazie molte. Salvadanaio termina qui. Ci risentiamo naturalmente lunedì. Da Deborah Rosciani, grazie ad Alessandro Longoni, che mi ha aiutato in questi due giorni in cui Marco Lombardo è in vacanza a Madrid. Roberto Scaltriti, speriamo di avergli dato le risposte che cercava. A voi tutti, buon fine settimana. L'efficienza energetica e ambientale in azione. COFELI, gruppo GDF Suez. Vi ha presentato Salva Danaio.